Scuola. Che cosa ti serve per iscrivere un bambino che ha meno di 6 anni a scuola? Se tuo figlio ha meno di 3 anni, puoi fare l'iscrizione al nido soltanto online sul sito del comune. Ti servono l'ISEE, la residenza e le credenziali SPID. Se sei un lavoratore, ti servono anche i dati del tuo lavoro. Se sei uno studente, ti servono i certificati di iscrizione al corso di studio. Se tuo figlio ha tra i 3 e i 5 anni, puoi fare l'iscrizione online alla scuola d'infanzia, che molti chiamano anche scuola materna. Ti servono le credenziali SPID e i dati del tuo lavoro o del tuo corso di studio. Se vuoi avere informazioni, chiama l'ufficio scuola del tuo quartiere. Il numero di telefono è qui sotto. Se non hai il computer o se hai bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione online, puoi prenotare un appuntamento con l'ufficio scuola. L'ufficio scuola ti dà aiuto.